Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Evitare o ridurre al lumicino la sperimentazione sugli animali, accelerare il processo di approvazione dei farmaci e scansare i vicoli ciechi nella ricerca. Sono questi gli obiettivi principali cui punta un gruppo di ricercatori dell'Università di Catania con UIS, il paziente virtuale. UIS sta per Universal Immune System Simulator ed è frutto di un quindicennio di lavoro degli scienziati catanesi. Rientra a pieno titolo in quel settore della ricerca che prende il nome di medicina computazionale. Ne parliamo con Francesco Pappalardo, che è professore di Computer Science dell'Università di Catania, più precisamente del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Buonasera Pappalardo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, senta, ci descriva subito, insomma, che cos'è UIS e come funziona in linea di massima questo paziente virtuale. Sì, UIS, Universal Immune System Simulator, è un simulatore del sistema immunitario umano. È nato 15 anni fa, attualmente si è evoluto tantissimo nell'ultimo quinquennio, fino a dare origine a quello che lei ha ben chiamato paziente digitale, nel senso che siamo in grado con questo simulatore di riprodurre gli effetti del sistema immunitario durante la dinamica nel suo combattimento contro i patogeni da cui ovviamente ci protegge ogni giorno e permette la personalizzazione verso un paziente ben preciso, nel senso io posso simulare lei oppure me stesso, il mio sistema immunitario, il suo sistema immunitario per vedere come reagisce a una nuova terapia che magari è stata prodotta da poco e il ricercatore che la sta sperimentando ha voglia di capire quale sarà l'effetto del sistema immunitario sulla malattia in questione. Quindi abbiamo una immagine virtuale del paziente da personalizzare con un profilo immunitario del paziente reale. Perfetto. Ecco, a che livello si spinge questa simulazione? Perché voi riuscite a simulare per esempio anche l'effetto di farmaci, no? Esatto. E proprio perché riusciamo a simulare l'effetto del farmaco ci siamo portati a un livello molto molto fine. Il simulatore attualmente è in grado di predire e simulare la dinamica sia a livello cellulare che anche a livello molecolare. A me vengono in mente quei vecchi videogiochi dove si simula per esempio una città con tanti agenti, ognuno con le sue caratteristiche che interagiscono gli uni con gli altri. Ecco, in qualche modo voi dovete aver, no? Come dire, messo a punto un meccanismo molto più sofisticato, ma di questo tipo. Accolto proprio nel segno, perché USS si basa proprio sulla modellistica d'agenti. La modellistica d'agenti rappresenta ogni componente di un sistema, in questo caso del sistema immunitario, sia a livello cellulare che molecolare, e poi ne predice l'andamento, il comportamento emergente. Questa tecnica è molto usata sia in biomedicina che anche per simulare i comportamenti sociali, quindi infatti, ha visto bene, è esattamente così. Quindi la risposta che dà questo sistema qual è? Cioè dice la tal molecola funziona? Ecco, la risposta non è un semplice sì o no, la risposta che fornisce il simulatore è proprio l'andamento totale della risposta immunitaria, quindi siamo in grado di verificare i livelli delle maggiori concentrazioni cellulari del sistema, i livelli delle maggiori citochine che il farmaco magari induce contro la risposta a una determinata patologia. Voi utilizzate questo software, diciamo, per simulare singole persone, ma anche per simulare, se ho ben capito, delle intere popolazioni, in alcune situazioni è molto utile. Consideri quello che per esempio avviene durante la sperimentazione di un farmaco, quando il farmaco ha superato la fase preclinica, arriva nella sperimentazione sull'uomo. Ci sono tre fasi di sperimentazioni sull'uomo dove si vanno a considerare coorti sempre più grandi come numero di pazienti arruolati. Ecco, noi siamo in grado di simulare coorti di centinaia di pazienti dove praticamente estrapoliamo un campione significativo della popolazione che vogliamo andare a analizzare e troviamo la risposta alla popolazione che stiamo andando a simulare. Con USS siamo in grado anche di verificare l'effetto sui farmaci in condizioni che realmente non possono essere ottenute. Ad esempio, cosa succede se io sperimento questo farmaco in una popolazione particolare come quella pediatrica, come quella anziana? O quella immunodepressa, per capirsi. Cioè, o quelle situazioni dove fare un esperimento può voler dire, quando si fa su un essere umano, ammazzarlo. Ecco, voi Esatto, invece lo fate esatto. Siamo in grado di verificare la risposta a pazienti particolari. Quali patologie avete simulato fino a questo momento? La prima patologia che ha visto l'applicazione del simulatore è stato su carcinoma mammario o su tumore al seno. Successivamente abbiamo implementato un sacco di modelli di malattia, quelli più importanti sono stati il melanoma, il cancro alla tiroide, poi malattie respiratorie come influenza, come tubercolosi. Attualmente abbiamo anche creato il modello di malattia per questa emergenza sanitaria Covid-19 e abbiamo applicato USS anche a malattie autoimmuni come sclerosi multipla o aterosclerosi. Senta, dal punto di vista regolatorio è previsto che si possa condurre una sperimentazione in silico, come si dice in questi casi? Allora, attualmente la regolamentazione da parte delle autorità regolatorie consente l'utilizzo di strumenti in silico, ovviamente, però non riconosce lo strumento in silico come sostituto del metodo tradizionale. Uno degli obiettivi proprio che ci proponiamo adesso è quello di presentare alle autorità regolatorie un dossier per fornire le evidenze necessarie affinché il metodo venga qualificato. Una volta che il metodo in silico è qualificato dalle autorità regolatorie, a quel punto allora sì, siamo in grado di proporlo come evidenza clinica o preclinica e quindi sostituire ad esempio totalmente la sperimentazione sull'animale e produrre evidenza che sostituisce la fase preclinica alle autorità regolatorie. Se tutto va bene, entro l'autunno presentiamo il dossier, entro il primo semestre del 2021 potremmo avere la qualifica da parte delle autorità regolatorie. Ecco, oltre a risparmiare degli animali, si risparmia molto tempo facendo esatto. questo tipo di simulazioni e quindi si può arrivare esatto. più velocemente e mettere per esempio una nuova molecola sul mercato. Grazie Francesco Pappalardo e avanti così, come diciamo qui a Smart City. Grazie, grazie molte. Allora, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo, come sempre, appuntamento a domani. Buona serata.